arrivò l'autunno. Le foglie ingiallivano e il vento le faceva volare in alto, là dove l'aria cominciava a colorarsi di gelo. Nubi scure, cariche di neve grandine, passavano sopra i campi. Un corvo stava su un ramo, morendo di sorriso. Il povero Anatrocolo continuava ad essere evitato da tutti per la sua bruttezza. In più, non sapeva come passare l'inverno. Una sera, al tramonto, da dietro un cespuglio sbucò d'improvviso un gruppo di bellissimi uccelli. Grandi, bianchi, con lunghi colli flessuosi. Erano cigni. L'Anatrocolo non aveva mai visto niente di più bello. Mandarono un grido che lui non aveva mai sentito. Aprirono le ali grandi, forti, per volare via da tutto quel gelo, per migrare verso i paesi più caldi, verso il mare aperto. L'anatrino li vedeva salire, salire, salire sempre più alti e insieme gli saliva in cuore una strana nostalgia. Cominciò a girare, a girare, a girare intorno a se stesso. Allungò il collo verso i cigni ormai lontani e mandò un grido così acuto e strano che anche lui ne fu sorpreso e spaventato.